Allora, eccoci. Quindi, Ave Maria a tutti. Allora, continuiamo il discorso che abbiamo aperto due martedì fa, perché martedì scorso non ci siamo visti a causa delle 40 ore, sui libri dei Maccabei. La volta scorsa, vi ricordate, abbiamo visto il primo e oggi chiaramente vedremo il secondo. C'è sempre l'immagine del Colosseo, perché sapete che questi libri sono libri che narrano fondamentalmente di guerra santa, quindi non riapriamo questo capitolo spinoso, perché oggi si parlerà principalmente di martirio, perché vi ho accennato la volta scorsa che il secondo libro dei Maccabei fondamentalmente non è che una prosecuzione, ma riprende e sviluppa alcuni particolari del primo, quindi focalizza l'attenzione su alcuni aspetti. Ci sono delle storie molto belle, molto edificanti. Io penso che le più belle, che magari commenteremo anche con un po' più di attenzione, sono il martirio di Eleazzaro. Vedremo questo grande vegliardo coraggiosissimo morto eroicamente a età sommamente veneranda, poi il martirio dei sette fratelli più la madre, e poi dovete sapere che nel secondo libro dei Maccabei tenete presente che c'è uno dei due unici fondamenti scritturistici sull'esistenza del purgatorio. Sono due i fondamenti della scrittura, molto indiretti, come vedremo. Uno si trova proprio qui e lo vedremo con e un altro si trova nelle lettere di San Paolo ai Romani, poi quando ci arriviamo, ve lo cito, non mi ricordo, il brano a memoria, però non mi ricordo dove si trova, però basta cliccare poi sull'indice e lo troviamo subito sulla ricerca elettronica. Quindi questo è un pochino il contesto. Vi ricordo che stiamo dentro l'ultimo periodo del giudaismo, quello della dominazione ellenistica, prima della dominazione romana, e quindi sotto il periodo terribile della tirannia e soprattutto di questo Antioco Epifane, e poi di cui vedremo oggi la triste fine in questo libro, e poi dei suoi successori che comunque hanno cercato di attuare l'opera di paganizzazione di Israele. Questo è sempre un sogno da parte delle potenze nemiche, e quindi non soltanto quello di combattere la religione, ma quella di esautorarla dall'interno. La cosa grave è stata questa, abbiamo visto la volta scorsa anche quello che poi ha mosso alcuni israeliti a ribellarsi, perché la peggiore guerra condotta dal demonio non è quella cruenta, l'ho sempre detto, è quella incruenta, fatta attraverso l'impazzimento. Qual è il male più grave che esiste oggi? Il male più grave è il tumore, ma il tumore lo sapete com'è la dinamica del tumore, sono alcune cellule che si impazziscono, cioè vengono catturate e poi si riproducono a velocità supersonica, e anziché produrre cellule buone producono cellule cattive, per questo che è invincibile per ora il tumore. Ecco, quello che avviene nelle malattie del corpo avviene anche nelle cose dello spirito. Al secondo libro dei Maccabei si apre con due lettere di cui possiamo leggere qualche stralcio e con una lunga prefazione che fa un po' comprendere alcuni aspetti. Ai fratelli giudei, questo è il capitolo proprio l'incipit, proprio l'inizio, dimoranti in Egitto, salute. I fratelli giudei che sono a Gerusalemme e nella regione della Giudea augurano una pace sincera. Dio voglia concedervi i suoi benefici e ricordarsi della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe, i suoi servi fedeli. Doni a tutti voi un cuore per adorarlo e per compiere i suoi voleri con spirito generoso e animo pronto. Vi apra il cuore alla sua legge e ai suoi precetti e vi conceda pace. Esaudisca le vostre preghiere, si riconcili con voi e vi sia propizio, e non vi abbandoni nell'ora dell'avversità. Guardate che belle queste parole. Così ora noi preghiamo per voi. Sotto il regno di Demetrio, nell'anno 169, noi giudei vi abbiamo scritto, nelle calamità e nell'angustia che si è abbattuta su di noi questi anni, da quando Giason, adesso poi vedremo chi è, e i suoi partigiani hanno tradito la Terra Santa e il Regno, incendiando il portale e versando sangue innocente, noi abbiamo pregato il Signore e siamo stati esauditi. Abbiamo offerto un sacrificio e del fior di farina, abbiamo acceso le lampade e presentato i pani. Li scriviamo per esortarvi a celebrare il giorno delle capanne nel mese di Chisleu, l'anno 188. Questo Giasone, che qui viene citato, lo vedremo. Giasone era un sommo sacerdote che poi si è venduto, tristissimamente, quindi... un pezzo grosso della gerarchia religiosa. Quindi non dobbiamo stupirci, perché state attenti che non è che col Nuovo Testamento le cose siano cambiate, perché molte cose accadute nell'Antico si riproducono pari pari nel Nuovo, che è stato oggi ammessa. Se sente le invettive di Gesù contro gli scribi e farisei, qualcuna di quelle può pure farsi contro qualche altro, insomma, personaggio un po' più moderno, insomma, diciamo così. Quindi non bisogna troppo stupirsi. Allora, saltiamo qualcosa e andiamo a vedere un attimo il secondo capitolo, che è la prefazione, dal 19 in poi. I fatti riguardanti Giuda Maccabeo e i suoi fratelli, la purificazione del grande tempio e la dedicazione dell'altare, come anche le guerre contro Antioco Epifane e il figlio di lui Eupatore, le manifestazioni venute dal cielo sopra coloro che si erano battuti con valore per il giudaismo, riuscendo in pochi a impadronirsi di tutta la regione e a scacciare una moltitudine di barbari, a riconquistare il tempio famoso in tutto il mondo, a liberare la città e a ristabilire le leggi che stavano per essere soppresse quando il Signore si rese loro propizio con ogni benevolenza. Questi fatti, narrati da Giasone di Cirene nel corso dei 5 libri, cercheremo di riassumerli in uno solo. Considerando infatti la caterva delle cifre e l'effettiva difficoltà per chi desidera inoltrarsi nei meandri delle narrazioni storiche a causa della vastità della materia, ci siamo preoccupati di offrire diletto a coloro che amano leggere, facilità a quanti intendono fissare nella memoria e utilità a tutti gli eventuali lettori. Per noi, certo, che ci siamo sobbarcati la fatica di questo riassunto, l'impresa non si presenta facile, ci vorranno sudori e vegli, così come non è facile preparare un banchetto e accontentare le esigenze altrui. Allo stesso modo, per fare cosa gradita a molti, ci sarà dolce sopportare la fatica, lasciando all'autore la completa esposizione dei particolari, preoccupandoci invece di procedere secondo le linee essenziali di un riassunto. Come infatti l'architetto di una casa nuova deve pensare a tutta la costruzione, mentre chi è incaricato di decorarla con pitture a incausto deve badare solo all'ornamentazione, così penso è per noi. Certo, l'addentrarsi e spaziare nei fatti, investigando nei particolari, spetta all'ideatore dell'opera storica, ma chi ne fa un riassunto si deve concedere di guardare la brevità del discorso e di trascurare la completezza della trattazione. Di qui dunque cominceremo la narrazione senza nulla aggiungere a ciò che abbiamo già detto. Sarebbe certo sciocco abbondare nei preamboli e abbreviare poi la narrazione storica. Quindi questa era un po' la prefazione. Ora saltiamo qualche pezzo, andiamo a vedere l'empio sacerdote Giasone, episodio edificante nel senso contrario, nel senso che ci fa comprendere come le brutte storie riguardanti anche i consacrati ci sono sempre state. Nel gruppo apostolico c'era Giuda, ecco, e voi saprete che si narra che Giovanni Paolo II dicesse questa battuta agrodolce. Dice che lui era più sfortunato di Gesù, perché Gesù ce n'aveva di traditori 1 su 12 e lui ce n'aveva 11 su 12, quindi come fedeli 1 su 12, ecco, quindi mi è andato un po' peggio che al maestro. Quindi non stupiamoci mai, perché purtroppo, allora, essendo passato all'altra vita Seleuco e avendo preso le redini del governo antioco, chiamato anche Epifane, Giasone, fratello di Onia, Onia era un sommo sacerdote santo, ricordo, di cui si parla nei capitoli 3 e inizio del 4, volle procurarsi con la corruzione il sommo sacerdozio. In un incontro con il re gli promise 360 talenti d'argento e altri 80 talenti riscossi con un'altra entrata. Oltre a questi prometteva di versargli altri 150 talenti se gli fosse stato concesso di erigere di sua autorità un ginnasio e un'efebia e di costituire una corporazione di Antiochene a Gerusalemme. Avendo il re acconsentito, egli ottenuto il potere, fece subito assumere ai suoi connazionali uno stile di vita greco, annullando i favori concessi dal re ai giudei per opera di Giovanni, padre di quel Leopolemo, che compì l'ambasciata presso i romani per negoziare il patto di amicizia e di alleanza. Quindi, abolite le istituzioni perverse, instaurò usanze perverse. Quindi questo cosa ha fatto? Si è comprato il sommo sacerdozio, aiutato dai greci, dando come contraccambio: se tu mi fai il sommo sacerdozio, io ti metto dentro Israele tutte quante le tue istituzioni pagane, quindi ti paganizzo il popolo. Quindi il sacerdote incaricato di santificarlo lo paganizza, aiutando il re pagano. Avete visto che bello? Quindi intraprese con zelo a costruire un ginnasio proprio ai piedi dell'Acropoli e indusse i giovani più distinti a portare il petaso, tutti quanti simboli e come dire, e costumi pagani. Ciò significava raggiungere il colmo dell'ellenizzazione, passare completamente alla moda straniera. Per l'eccessiva corruzione di Giasone, empio e non sommo sacerdote. Perciò i sacerdoti non erano più premurosi del servizio all'altare, ma disprezzando il tempio e trascurando i sacrifici, questo sembra stretta attualità, si affrettavano a partecipare agli spettacoli contrari alla legge nella palestra. Sapete che ci sta qualcuno che va in palestra tra i miei confratelli? Ahimè, purtroppo c'è da qualche parte del mondo, vi assicuro che qualcuno ci va. Appena dato il segnale del lancio del disco, così tenendo in poco conto l'onore ricevuto in eredità dai loro padri, nella lettera agli ebrei, che dicono che non sia stata scritta da San Paolo, ma io non ci credo, detto fra me e voi, si legge, parlando proprio del sacerdozio: nessuno può attribuirsi questo onore se non chi è chiamato da Dio come Aronne. Cioè un sacerdote c'ha l'onore sommo dei sommi, quindi, che è quello di essere costituito per le cose riguardanti Dio, e non si può andare a abbassare a queste cose, insomma, palestre, lanci del disco o cose di questo genere, no? Chi sta in alto non queste le lascia, ecco. Però vedete, a volte capita. Quindi, tenendo in poco conto l'onore ricevuto in eredità dai loro padri, stimavano nobilissime le glorie elleniche. Quindi, capite? Il grande Coelette, che poi ci arriveremo, usava un'espressione che sembra un po' cinica, ecco: niente di nuovo sotto il sole. Quindi, ecco, non c'è niente di nuovo sotto il sole. Quindi, sono tutte storie antiche, ahimè. Ma appunto per questo li sorprese una grave situazione ed ebbero quali avversari e punitori, come accadrà ai nostri, proprio coloro le cui istituzioni seguivano con zelo e ai quali cercavano di rassomigliare in tutto. Non resta impunito il comportarsi empiamente contro le leggi divine. Quindi, questa è una parola per tutti. Sappiamo sempre che non ti preoccupate, che il Padre Eterno poi i conti purtroppo li fa, e li fa fino all'ultimo centesimo, come dimostrerà chiaramente il successivo periodo storico. Celebrandosi a Tiro i giochi quinquennali con l'intervento del re, lo scellerato Giasone inviò come rappresentanti alcuni antiocheni di Gerusalemme, i quali portavano con sé addirittura 300 dracme d'argento per il sacrificio a Ercole, quindi sacrifici a dei pagani. Ma coloro che lo portavano ritenevano non conveniente usarle per il sacrificio, bensì impiegarle per altra spesa. Figuriamoci, insomma, vedete che nobile spesa adesso, eh? Così il denaro destinato al sacrificio ad Ercole da parte del mandante servì per iniziativa dei latori alla costruzione delle tre regni, quindi figuriamoci quale grande opera apostolica. Antioco, avendo mandato Apollonio, figlio di Menesteo, in Egitto per l'intronizzazione del re Filometore, venne a sapere che costui era diventato contrario al suo governo e quindi si preoccupò della sua sicurezza. Perciò si recò a Giaffa, poi mosse la volta di Gerusalemme, fu accolto magnificamente da Giasone, vedete, e dalla città, e fu ricevuto con un corteo di fiaccole e acclamazioni. State un po', Così riprese una marcia militare verso la Fenicia. 3 anni dopo Giasone mandò Menelao, fratello del già menzionato Simone, a portare al re del denaro e a presentargli un memoriale su alcuni affari importanti. Ma quello, fattosi presentare al re e avendolo ossequiato con un portamento da persona autorevole, si accaparrò il sommo sacerdozio. Vedete, storie di potere, superando l'offerta di Giasone di 300 talenti d'argento. Quindi gli ha dato di più e si è acchiappato. Quindi, monito delle disposizioni del re, si presentò al ritorno senza avere nulla con sé che fosse degno del sommo sacerdozio, ma soltanto le manie di un tiranno unite alla ferocia di una belva. Così Giasone, che aveva tradito il proprio fratello, grande sommo sacerdote Onia, fu tradito a sua volta da un altro e fu costretto a fuggire nel paese dell'Ammanitide. Menelao si impadronì del potere, ma non si interessò più del denaro promesso al re, sebbene gliene avesse fatto richiesta Sostrato, comandante dell'Acropoli. Questi infatti aveva l'incarico della riscossione dei tributi. Per questo motivo tutti e due furono convocati dal re. Menelao lasciò come sostituto del sommo sacerdozio di Simo con suo fratello, Sostrato lasciò Cratede capo dei Ciprioti. Quindi, vedete che storie. Quindi. Niente di nuovo sotto il sole. Ecco, adesso cominciano invece le storie sommamente edificanti per noi. Si scatena chiaramente la repressione di Antioco e alcuni, rimanendo fedeli alla legge, la pagano abbastanza cara. Abbiamo l'episodio del martirio di Giasone, di Eleazzaro. Allora, leggiamo interamente il capitolo sesto. Questa sera dobbiamo leggere molto, quindi commentare poco, anche perché questi libri, avrete fatto caso, non c'è molto da spiegare da un punto di vista, perché il senso letterale rende molto bene anche il significato dei racconti. Non molto tempo dopo, il re inviò un vecchio ateniese per costringere i giudei ad allontanarsi dalle leggi dei padri e a non governarsi più secondo le leggi di Dio, e inoltre per profanare il Tempio di Gerusalemme e dedicare questo a Giove Olimpio e quello sul Garizim a Giove Ospitale, come si faceva agli abitanti del luogo. Grave e intollerabile per tutti era il dilagare del male. Il Tempio infatti era pieno delle dissolutezze e delle gozzoviglie dei pagani che si divertivano con le prostitute, e dentro i sacri portici si univano a donne introducendovi pratiche sconvenienti. L'altare era colmo di cose detestabili, vietate dalle leggi. Non era più possibile né osservare il sabato, né celebrare le feste dei padri, né semplicemente dichiarare di essere giudeo. Si era trascinati con aspra violenza ogni mese nel giorno natalizio del re ad assistere al sacrificio. E quando giungevano le feste dionisiache, si era costretti a sfilare in onore di Dioniso coronate di edera. Tenete presente che Dionisio e i culti dionisiaci erano i culti del piacere. Su istigazione dei cittadini di Tolemaide fu poi emanato un decreto per le vicine città ellenistiche perché anch'essi seguissero le stesse disposizioni contro i giudei, li costringessero a mangiare le carni dei sacrifici e mettessero a morte quanti non accettavano di aderire alle usanze greche. Si poteva allora capire quale tribolazione incombesse. Furono denunciate, per esempio, 2 donne che avevano circonciso i figli, appesero i bambini alle loro mammelle e dopo averle condotte in giro pubblicamente per la città, le precipitarono dalle mura. Altri che si erano raccolti insieme nelle vicine caverne per celebrare il sabato, denunciati a Filippo, vi furono bruciati dentro, la cosiddetta fine del topo, perché essi avevano riluttanza a difendersi per il rispetto di quel giorno santissimo. Io prego coloro che avranno in mano questo libro, ecco, questo è rivolto a noi, di non turbarsi per queste disgrazie e di pensare che i castighi vengono non per la distruzione, ma per la correzione del nostro popolo. Quindi è veramente segno di grande benevolenza il fatto che agli empi non è data libertà per molto tempo, ma subito incappano nei castighi. Poiché il Signore non si propone di agire con noi come fa con le altre nazioni, attendendo pazientemente il tempo di punirle, quando siano giunte al colmo dei loro peccati. E questo per non doverci punire alla fine, quando fossimo giunti all'estremo delle nostre colpe. Perciò egli non ci toglie mai la sua misericordia, ma correggendoci con le sventure non abbandona il suo popolo. Ciò sia detto da noi solo per ricordare questa verità. Dobbiamo ora tornare alla narrazione. Non so se avete colto l'insegnamento molto profondo di queste righe. Cioè, quando Dio punisce, tra virgolette, i suoi, lo fa sempre con un fine buono, sempre a fine correttivo. Invece Dio aspetta per punire gli empi che giungano al colmo delle loro colpe, e non lo fa con fine corruttivo, ma lo fa con fine retributivo. Quindi le persone che sono cattive e ostinate nel male non sono corrette da Dio, ma sono lasciate fare fino a quando non giungono al colmo della misura, e a un certo punto viene detto stop. Quello stop non è uno stop per farle diventare più buone, ma è uno stop che segna l'inizio della fine, come noi diciamo nel nostro parlare comune. Cose che sicuramente attendono questa nostra generazione, per quanto mi riguarda, perché presto o tardi Dio dirà la parola basta a tutto quello che si sta vedendo oggi in giro, perché penso che se non siamo arrivati al colmo non è che ci siamo molto lontani. Comunque queste sono idee mie personali. Torniamo veramente alla narrazione. Un tale Eleazzaro, uno degli scribi più stimati, uomo già avanti negli anni e molto dignitoso nell'aspetto della persona, veniva costretto ad aprire la bocca e ingoiare carne suina. Metto subito le mani avanti, perché dice, ma che sarà mai ingoiare carne suina? Ecco, non è niente per certi aspetti, però nell'Antico Testamento per gli ebrei era proibito mangiare questa carne. Voi dite, perché c'erano queste prescrizioni? Ecco, per capire perché basta leggere San Tommaso d'Aquino, le spiegazioni che dà di questi precetti che a noi sembrano un po' puerili, perché nel Nuovo Testamento, quando Gesù dice andate per le case e mangiate qualunque cosa vi mettano dinanzi, un evangelista ci fa una chiosa e dice così facendo dichiarava mondi tutti gli alimenti, quindi non è che uno diventa puro o impuro a seconda di quello che si mangia, questo nel Nuovo Testamento, ma nell'Antico Testamento, dice San Tommaso, Dio aveva dato dei precetti che a noi sembrano un po' puerili, appunto perché l'età dell'uomo era abbastanza puerile, quindi Dio tratta l'uomo a seconda della condizione in cui si trova. Ora, le carni suine, come voi sapete, sono particolarmente allettanti per i sensi della gola, quindi non mangiarsele per un uomo molto carnale, molto terra terra, come erano i trogloditi dell'Antico Testamento e come sono i trogloditi del XX secolo, ecco. Dire di non mangiare carne suina vuol dire porre una piccola moderazione alla sua vita un po' troppo animalesca, d'accordo? Quando poi arriva la grazia nel Nuovo Testamento non c'è bisogno, insomma, di porre queste limitazioni proprie dei fanciulli, d'accordo? Il problema è che se Dio pone una cosa di questo genere, anche se questa era una norma, diciamo così, a tempo, perché non è un precetto dei 10 comandamenti, fino a quando quella norma vige bisogna osservarla, sotto pena di peccato, quindi se l'avesse fatto avrebbe peccato. Non so se avete capito, cioè, o meglio, non so se mi sono spiegato e se sono riuscito a farvi un attimo capire questo particolare, insomma. Comunque, egli, preferendo una morte gloriosa a una vita ignominiosa, spero che tutti siate d'accordo, meglio una morte gloriosa che una vita ignominiosa, quindi meglio morire piuttosto che peccare, si incamminò volontariamente al supplizio, sputando il boccone e comportandosi come conviene a coloro che sono pronti ad allontanarsi da quanto non è lecito gustare per attaccamento alla vita. Sapete che non mi ricordo quale santo, non mi riesco a ricordare, non mi ricordo sta storia, non mi ricordo manco dove l'ho letta, però me la ricordo. A un certo punto volevano fargli fare peccato impuro, quindi l'avevano legato e gli avevano mandato vicino una donna a provocarlo. Sapete che ha fatto questo? Si è messo la lingua tra i denti, se l'è praticamente spezzata, si è tagliato la lingua e ha sputato in faccia a questa un pezzo di lingua con tutti i fiotti di sangue che gli venivano addosso, cosa che tutti fareste ovviamente, no? Ecco. I cristiani sono duri e puri, quindi cattolici col K sono sempre esistiti, insomma, speriamo perché questo è il tempo dei coniglietti, insomma, e dei vigliacchetti, quindi speriamo che ci sia anche qualcuno che sia ancora pronto. Quindi questo gli ha semplicemente sputato in faccia la carne suina, questo è ancora roba da ragazzi, insomma, no? E comportandosi come conviene a coloro che sono pronti ad allontanarsi da quanto non è lecito gustare per attaccamento alla vita. Quelli che erano incaricati dell'illecito banchetto sacrificale, in nome della familiarità di antica data che avevano con quest'uomo, quindi questi erano venduti, erano amici suoi, erano venduti giudei, lo tirarono in disparte e lo pregarono di prendere la carne di cui era lecito cibarsi, preparata da lui stesso, e fingere di mangiare le carni sacrificate imposte dal re. Capite? Gli dicono: guarda, tu non ti mangi questo qui, però mo te portiamo lo spiedino di vitello, te lo mangi, e dopo dici che ti sei mangiato le carni sacrificate, non te le sei mangiate. D'accordo. Quindi, agendo in questo modo, sarebbe sfuggito alla morte e avrebbe trovato umanità in nome dell'antica amicizia che aveva con loro. Vedi i cattivi consigli? Il compromesso, troviamo una scappatoia quando ci sta da... Ecco. Ma egli, facendo un nobile ragionamento, degno della sua età e del prestigio della vecchiaia, della raggiunta veneranda canizia e della condotta irreprensibile tenuta fin da fanciullo, ma specialmente delle sante leggi stabilite da Dio, rispose subito dicendo che lo mandassero pure alla morte, poiché, egli diceva, non è affatto degno della nostra età fingere, con il pericolo che molti giovani, pensando che a 90 anni, ecco, Eleazaro sia passato all'usanza straniera, a loro volta, per colpa della mia finzione, per appena un po' più di vita, si perdano per causa mia e io procuri così disonore e macchia alla mia vecchiaia. Infatti, anche se ora mi sottraessi al castigo degli uomini, non potrei sfuggire, né da vivo né da morto, alle mani dell'Onnipotente. Vi prego di riprenderle, queste cose sono molto chiare, io faccio soltanto qualche piccola sottolineatura. Quindi capite il ragionamento di quest'uomo, dice: se io fingo, numero uno, do cattivo esempio, e quindi che cosa penseranno i giovani se il vecchio, il grande Eleazaro si è piegato alle usanze dei pagani, che bisogna piegarsi? Uno, ma seconda cosa, io fingo, Dio lo vede questo fatto qua, e quindi poi mi fa correre. Bisogna pensarci ogni tanto, eh? Come quelli che hanno paura di confessarsi, che si vergognano, dice: oh, io non ce la faccio. Dice. Uno deve avere paura che pecca, perché Dio non è che diventa cieco, eh? Non è che Dio viene a conoscere i nostri peccati quando li diciamo al confessore. Quindi se io sto zitto, Sit psot, non li sa nessuno. Dio li sa già da prima. Devi mica avere paura di un uomo, che te potrà fare? Al massimo ti fa una sgridata e ti dà una penitenza, ma tanto oggi non dà nessuno la penitenza. Quindi non, ma, il massimo ti fa una sgridatina oggi, neanche una. Che beh, basta. Poi il Padre Eterno che ti fa correre. Quindi, ma, oggi gli uomini, insomma, quindi. Perciò, abbandonando ora da forte questa vita, mi mostrerò degno della mia età e lascerò ai giovani un nobile esempio, perché sappiano affrontare la morte prontamente per le sante e venerande leggi. Quindi, dette queste parole, si avviò prontamente al supplizio. Quelli che ve lo trascinavano cambiavano la benevolenza di poco prima in avversione, ritenendo che le parole da lui pronunciate fossero una pazzia. Mentre stava per morire sotto i colpi, quindi ammazzate, disse tra i gemiti: il Signore, che possiede una santa scienza, sa bene che potendo sfuggire alla morte soffro nel corpo atroci dolori sotto i flagelli, ma nell'anima sopporto volentieri tutto questo per il timore di lui. In tal modo egli morì, lasciando la sua morte come esempio di nobiltà e di ricordo, e ricordo di virtù non solo ai giovani, ma anche alla grande maggioranza della nazione. D'accordo, quindi se il Padre Eterno ci mette dinanzi a questa alternativa, peccato morire, non bisogna avere neanche un istante di esitazione, bisogna morire e si soffra quello che si debba soffrire. Il capitolo dopo è ancora peggio, già questa scena è abbastanza edificante, ma quello dopo Ci fu anche il caso, Maccabei 7, questo penso che sia uno dei passi più belli e più edificanti dell'Antico Testamento. E questo vale per le mamme dal cuore tenero. Ecco, diciamo che lo sfondo di questo Vangelo, di questo brano, è il Vangelo dove Gesù dice: chi viene a me non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i campi e perfino la propria vita non può essere mio discepolo. Quindi cosa vuol dire che dobbiamo volere il male di queste persone? No, ma vuol dire che Dio viene prima degli affetti anche più santi. Allora, sette fratelli che presi insieme alla loro madre furono costretti dal re a forza di flagelli e nerbate a cibarsi di carni suine proibite. Uno di loro, facendosi interprete di tutti, disse: che cosa cerchi o vuoi sapere da noi? Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri. Allora il re comandò di mettere al fuoco teglie e caldaie. Appena queste divennero roventi, il re comandò, attenti, di tagliare la lingua a quello che si era fatto loro portavoce, di scorticarlo e tagliargli le estremità sotto gli occhi degli altri fratelli e della madre. Dopo averlo mutilato di tutte le membra, comandò di accostarlo al fuoco e di arrostirlo quando ancora respirava. Mentre il vapore si spandeva largamente tutto intorno alla teglia, gli altri si esortavano a vicenda con la loro madre a morire da forti, dicendo: il Signore Dio ci vede dall'alto e certamente avrà pietà di noi, come dichiarò Mosè nel canto che protesta apertamente con queste parole, e dei suoi servi avrà compassione. Siate attenti che queste cose qui, se vi leggeste come me il martirologio cristiano, che se uno usa il breviario antico tutte le mattine, allora prima c'è il martirologio. Ah, guardate, c'è una cultura cioè io penso che chi vuole fare il macellaio, che non sa come si fa, basta che si legge un po' di martirologio, si impara tutto proprio, guardate, tutti i tagli delle mani, dei piedi, delle membra, delle braccia, di tutto. Ecco, quindi se uno non vuole fare, e questo lo passate i nostri fratelli cristiani, se volete ve ne racconto un paio di quelle proprio, insomma, più truci. Ecco, a uno, questo gli hanno tagliato le estremità, a uno praticamente gli hanno fatto un martirio, questo lo narra San Giovanni Ed nel libro Il cuore ammirabile della madre di Dio. Praticamente il martirio era questo qua: hanno cominciato, gli hanno tagliato prima le dita delle mani, della mano destra, della mano sinistra e dei piedi destro e piede sinistro, poi gli hanno tagliato tutta la mano destra, sinistra, piede destro e piede sinistro, poi gli hanno tagliato il braccio destro, sinistro, poi ginocchio, sinistro, poi hanno tagliato la spalla destra, sinistra. Alla fine era praticamente rimasto un tronchetto, ancora non era morto dissanguato, per farlo rinnegare alla fine, poveraccio, poi l'hanno finito. Oppure a una santa donna che, sapete come sempre succedevano queste scene qui, cercano di togliergli la verginità, e come succede sempre, il Padre Eterno su questo, ci sono due cose che non tollera: gli fa fare tutto ai suoi martiri, ma non le cose che le danno la purezza. Sapete che Gesù Cristo in croce sarebbe dovuto morire nudo, ma questo Dio non l'ha permesso. L'unica umiliazione che non gli ha fatto io è stata quella là. E quindi quando tutti questi fenomeni andavano contro le donne vergini, si impietrivano davanti a, cioè, oppure rimanevano fulminati. Allora questo, se è un cavo, si è arrabbiato, e ha fatto una bella cosa: ha fatto preparare un bello spunzone a punta rivolto verso l'alto, dopodiché ha messo questa donna su una carrucola, gli ha divaricato le gambe, dopodiché ha fatto lasciare la donna di getto, in modo tale che cadesse, chiaramente morisse, oltre che perdere la verginità, attraverso quello spunzone. Ok? Ce ne sarebbero molti altri, però tanto sentiamo i sette fratelli. Ecco. Venuto meno il primo, allo stesso modo esponevano lo scherno il secondo, e strappatagli la pelle del capo con i capelli, se sembra una cosa un po' da indiani, no? Gli domandavano: sei disposto a mangiare prima che il tuo corpo venga straziato in ogni suo membro? Egli, rispondendo nella lingua dei padri, protestava: no. Perciò anch'egli subì gli stessi tormenti del primo. Giunto all'ultimo respiro, disse: Tu, o scellerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re dell'universo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà vita nuova ed eterna. Primo punto dell'Antico Testamento dove si parla in maniera esplicita e così chiara della risurrezione della carne. Il martirio del secondo fratello santo. Dopo costui fu torturato il terzo, che alla loro richiesta mise fuori prontamente la lingua e stese con coraggio le mani, dicendo dignitosamente: che grande! Dal cielo ho queste membra, me la dà il Padre Eterno? Benissimo. E per le sue leggi le disprezzo, perché da lui spero di riaverle di nuovo. Lo stesso re e i suoi dignitari rimasero colpiti dalla fierezza di questo giovane, che non teneva in nessun conto le torture. Fatto morire anche questo, si mise a straziare il quarto con gli stessi tormenti. Ridotto in fin di vita, egli diceva: è preferibile morire per mano degli uomini, quando da Dio si ha la speranza di essere da lui di nuovo risuscitati, ma per te non ci sarà davvero risurrezione per la vita. Altro elemento, sono due risurrezioni, eh? Mi viene in mente, quando leggo queste cose, a un pezzo della Summa Contra Gentiles del grande San Tommaso d'Aquino, in cui l'unico caso in tutti gli scritti, a San Tommaso gli scappa una specie di parolaccia. Lui è sempre molto sobrio, sempre molto compassato, proprio il classico santo. A un certo punto, nella Summa Contra Gentiles, quando parla delle altezze di Dio e delle cose di Dio, gli scappa questa espressione: si vergognino dunque gli uomini che, chiamati a tante altezze, brancolano in cose tanto basse. Questo è il massimo delle parolacce di San Tommaso d'Aquino. Infatti il commentatore va subito nella nota, dice: è l'unico caso in tutte le opere in cui all'angelico scappa, sei arrabbiato, dice, ma tu uomo che saresti chiamato a queste cose, che razza di vita fai? Ecco, io quando leggo queste cose dico: si vergognino tutti quelli che hanno timore, rispetto umano, di qualche piccola critica, di qualche piccola presa in giro, inevitabile per coloro che vivono da figli di Dio, quando insomma ci sono stati quelli che sono stati morti, ammazzati in modo truculento, insomma. Quindi andiamo avanti a vedere il quarto. No, il quinto, siamo già arrivati avanti. Subito dopo condussero il quinto e lo torturarono, ma egli, guardando il re, diceva: tu hai potere sugli uomini e, sebbene mortale, fai quanto ti piace, ma non credere che il nostro popolo sia stato abbandonato da Dio. Quindi vedete, anche in tempo di persecuzione non bisogna mai pensare che Dio ha abbandonato, perché anche la persecuzione, quando arriva, Dio la sta permettendo, non è una cosa che avviene senza la sua permissione. E quindi, se Dio ci chiede di, magari ci chiedesse di morire martiri, si va di corsa. E non è questo: ah, ma Dio si è dimenticato di noi, da tutto quanto questo potere ai nostri nemici. Quanto a te, aspetta e vedrai la grandezza della sua forza, come strazierà te e la tua discendenza. Tutto questo sotto gli occhi della madre, d'accordo, dopo sentirete. Dopo di lui presero il sesto, che mentre stava per morire disse: non illuderti stoltamente, noi soffriamo queste cose per causa nostra, perché abbiamo peccato contro il nostro Dio. Perciò ci succedono cose che muovono a meraviglia, ma tu non credere di andare impunito dopo aver osato combattere contro Dio. Quindi questo sta morendo martire ingiustamente e dice: sto morendo a causa dei miei peccati. Si vergognino tutti quelli che si lamentano per una minima puntura di spillo, eccetera, eccetera, perché ogni volta che noi ci lamentiamo, anche quando abbiamo ragione, voi pensate se ci appare davanti il nostro Signore Gesù Cristo durante la passione, dice: ma tu che cosa vuoi? Che c'è da lamentarti? Ti hanno trattato peggio di me? No. Io ho fatto qualche peccato? No. Tu forse qualcuno l'avrei fatto? Tu sei un uomo mortale, io sarò il figlio di Dio? Quindi che cosa dovresti da lamentarti? Che te lamenti? Come diceva mia madre, c'hai ragione, non te lo meriti, e vale per tutte le altre che ti sei meritato prima, eh? Se non c'è la voglia, quante ce ne stanno, caterve, quindi dice, ma stavolta non ho fatto niente, se la fate, figurate quante l'hai fatte prima, che problema c'è, va fottuto un conto tanto, no? Quindi che è? Guardate che sono cose da mettere in pratica, eh? Ecco, quindi soprattutto la madre era ammirevole e degna di gloriosa memoria, perché vedendo morire 7 figli in un solo giorno, ecco, tutto sopportava serenamente per le speranze poste nel Signore. E allora sentite cosa dice adesso questa madre santa, ecco. Esortava ciascuno di loro nella lingua dei padri, mica dice, povera stella, non vieni qua, povero cocco, non lo fate al mio povero bambino, adesso gli fanno la bua, ecco. Esortava ciascuno di loro nella lingua dei padri, piena di nobili sentimenti, e temprando la tenerezza femminile con un coraggio virile, diceva loro, non so come siete apparsi nel mio seno, non vi ho dato il respiro e la vita, né io ho dato forma alle membra di ciascuno di voi. Senza dubbio il creatore dell'universo, che ha plasmato all'origine l'uomo e ha provveduto alla generazione di tutti, per la sua misericordia vi restituirà di nuovo il respiro e la vita, poiché voi ora per le sue leggi non vi preoccupate di voi stessi. Questa è una donna giudea, non è una donna cristiana, e sapete quante cristiane fa secche? Quante le proprio distrugge? Ecco. Qui ho già dovuto dire che gli ebrei ci superano, perché sono stato l'ultima volta che sono andato in Terra Santa, se uno va nel quartiere ebraico, vergogna per gli uomini, perché a differenza degli uomini nostri, per i quali è segno di sommo disonore accostarsi nei luoghi dove c'è puzza di cera, sommo disonore, guai, guarda, se qualche volta per sbaglio compaio in chiesa vicino alla porta, che se no poi mi contamino troppo, quindi... Per gli ebrei, cioè tu donna vieni, perché ci vado io, e vieni con me, ma sono io che vado lì, perché stare al cospetto di Dio è sommo onore, cioè tu vieni con me, non è che tu ci vai e io ogni tanto, se tu mi tiri per i capelli e mi supplichi in ginocchio, forse ci vengo senza contaminarmi. Questo per quanto riguarda gli uomini. Non parliamo le donne, tutte belle, sante, caste, vereconde, quindi giudee, per carità, popolo dell'antica alleanza, ma noi cristiani dovremmo avere quello dell'antico e quello della nuova. Ma qua non stavo manco a rosa rose, diceva mia madre, quindi... Questi sono giudei, questi qua, giudei santi. Antioco, credendosi disprezzato e sospettando che quel linguaggio fosse di scherno, dice, ah, questa è via pure in giro, questa qua, hai visto? Esortava il più giovane, che era ancora vivo, l'ultimo, e non solo a parole, ma con giuramenti prometteva, ecco, vedete quando il diavolo cambia sistema, dice, prima il terrore, adesso passiamo alla non funziona, dice, che l'avrebbe fatto ricco e molto felice. Se avesse abbandonato la tradizione dei padri, l'avrebbe fatto suo amico e gli avrebbe affidato alti incarichi, ma poiché il giovane non badava per nulla a queste parole, il re, chiamata la madre, ecco, quindi, cioè era rimasto solo uno, la esortava a farsi consigliera di salvezza per il ragazzo, dice, mica sarai una madre senza cuore, no? Che fai a morire tuo figlio? Esortata a lungo, ella accettò di persuadere il figlio, attenti, chinatasi su di lui, beffandosi del crudele tiranno, disse nella lingua dei padri, imparino le mamme, figlio, abbi pietà di me, che ti ho portato in seno 9 mesi, quindi, che gli diciamo? Fa quello che ti ha detto, non te fa ammazzare pure tu. Abbi pietà di questo povero cuore di madre. Dirà così? Che ti ho allattato per 3 anni, ti ho allevato, ti ho condotto a questa età, ti ho dato il nutrimento. Ti scongiuro, figlio, contempla il cielo e la terra. Osserva quanto viene essi e sappi che Dio li ha fatti non da cose preesistenti. Tale è anche l'origine del genere umano. non da cose preesistenti. Tale è anche l'origine del genere umano. Quindi qui c'è scritto che non veniamo dalle scimmie, come qualcuno pensa. Chiusa parentesi. Non temere questo carnefice, ma mostrandoti degno dei tuoi fratelli, accetta la morte, perché io ti posso riavere insieme con i tuoi fratelli nel giorno della misericordia. Una cosa simile accadde a Santa Felicita, nobil donna romana. C'è anche, la narra, l'ha vista anche Maria Valtorta, la storia di Santa Felicita, che la narra nei quaderni in maniera molto toccante. Lei era figlia di un nobile romano, nobilissimo romano, e sto nobile, quando già stava pronta al martirio, stava rinchiusa, non mi ricordo se era al Colosseo o al Tullianum, c'aveva un figlio appena nato, e va il padre a supplicarla, a dirgli: guarda, abbi, tu di, che t'ho fatto di male? Bel Dio che c'ha, ecco, hai visto che bel Dio? Tutti morti, adesso tu mi vorresti far credere che il tuo Dio vuole che resta orfano sta povera creatura. Vuoi una mamma con un bambino neonato? Fa, guarda, non vedi con occhietti di guarda? Lo vuoi lasciare orfano? E lei, nonna, Maria Valtorta, che dice, nota, dice, questa sentendosi il cuore strappare, dice: io non voglio lasciare orfano nessuno. Se questo è quello che Dio vuole, qualcuno penserà a mio figlio, ci pensa il Padre Eterno, d'accordo? E si è fatta strappare il figlio di mano e è andata a morire martire, senza colpo, e quello doveva fare, cioè non è matta uno che ha fatto così. Mentre lei ancora parlava, il giovane disse: che aspettate? Non ubbidisco al comando del re, ma ascolto il comando della legge che è stata data ai nostri padri per mezzo di Mosè. Tu però, che ti sei fatto autore di ogni male contro gli ebrei, non sfuggirai alle mani di Dio. Noi in realtà soffriamo per i nostri peccati, ancora. Se ora per nostro castigo e correzione, quindi Dio non castiga, dicono qualcuno oggi, quindi se vedete che la Bibbia non sarà letta tanto bene, il Signore vivente per breve tempo si è tirato per noi, di nuovo si riconcilierà con i suoi servi. Quindi le sofferenze del popolo santo di Dio sono sempre castighi e correzioni. Castigo vuol dire castumaggere, rendere casto. Quindi è sempre una sofferenza finalizzata a un bene più grande. Ma tu, o sacrilego, e il più scellerato di tutti gli uomini, perché prima di morire comunque gli si cantano, ecco, non esaltarti in vano alimentando segrete speranze mentre alzi la mano contro i figli del cielo. Guardate il senso della sua dignità. Figli del, noi siamo i figli del cielo, siamo i figli di Dio. Perché sei ancora al sicuro dal giudizio del Dio Onnipotente che vede tutto. Qui c'è proprio una confessione di fede, vedete questo come se l'ha imparato bene il Catechismo di San Pio X, vedete? Tutto se l'ha imparato. Già ora i nostri fratelli che hanno sopportato un breve tormento per una vita eterna sono entrati in alleanza con Dio. Tu invece subirai nel giudizio di Dio il giusto castigo della tua superbia. Anch'io, come già i miei fratelli, offro il corpo e la vita per le leggi dei padri, supplicando Dio che presto si mostri pagato al suo popolo e che tu, fra dure prove e flagelli, debba confessare che Egli solo è Dio. Con me invece i miei fratelli possa arrestarsi l'ira dell'Onnipotente, giustamente attirata su tutta la nostra stirpe. Il re, divenuto furibondo perché gliel'aveva cantate, si sfogò su di lui più crudelmente che sugli altri, sentendosi invelenito dallo scherno. Così anche costui passò all'altra vita, puro, confidando pienamente del Signore. E ultima, dopo i figli, anche la madre incontrò la morte. Dopo i figli. Sia sufficiente quanto abbiamo esposto circa i pasti sacrificali e le eccessive crudeltà. Quindi, poi chiude la parentesi. Va bene? Quindi queste cose sono di somma edificazione, di somma vergogna per tutti noi. Detto questo, la parte restante del secondo libro dei Maccabei non è particolarmente importante, comunque per la vostra andiamo soltanto a vedere. Allora, nell'ottavo capitolo le conosciamo già, c'è una narrazione abbastanza edificante degli atti di eroismo di Giuda Maccabeo che conosciamo dalla scorsa puntata. Nel nono capitolo viene descritta la fine di Antioco Epifane, fa capire come il Padre Eterno a un certo punto, quando arrivano questi bei signori, questo è sempre capitato nel corso della storia, li lascia sfogare un po', dopodiché dice stop, e quando dice stop è stop, hanno fatto tutti una brutta fine, tutti, nessuno escluso, nessuno è morto quasi, nessuno me l'ha detto proprio, ecco. Invece nel capitolo 12 c'è il passo del sacrificio per i morti, che è bene leggere perché è sommamente edificante, perché è il brano dell'Antico Testamento che dà il fondamento del purgatorio, e con questo diciamo che concludiamo. È il capitolo 12, i versetti dal 28 al 45, che adesso andiamo a vedere. Allora, un pochino prima leggiamo, questo è sempre Giuda Maccabeo: poi mosse contro Carnion e la Targateo e uccise 25.000 uomini. Dopo la sconfitta e lo sterminio di questi, marciò contro la fortezza di Efron, nella quale si trovava Lisia, con una moltitudine di gente di ogni razza. Davanti alle mura erano schierati i giovani più forti, che combattevano vigorosamente, mentre nella città stavano pronte molte riserve di macchine e di proiettili. Ma invocato il Signore, che con potenza distrugge le forze dei nemici, fecero cadere, il capitolo giusto, ok, sì, è questo. Ok, saltiamo però un... Va bene. No, 38-45, scusate. Giuda poi radunò l'esercito e venne nella città di Dollam. Attenzione. Poiché stava per iniziare il settimo giorno, si purificarono secondo l'uso e vi passarono il sabato. Il giorno dopo, quando ormai la cosa era diventata necessaria, gli uomini di Giuda andarono a raccogliere i cadaveri dei caduti per deporli con i loro parenti nei sepolchi dei loro padri. Attenti. Ma trovarono sotto la tunica di ciascun morto oggetti sacri agli idoli di Yamnia, che la legge proibisce ai giudei. Si sono accorti che questi erano morti avendo sulla coscienza un peccato di idolatrie. Così fu a tutti chiaro il motivo per cui erano caduti. Perciò tutti, benedicendo Dio, giusto giudice che rende paresi le cose occulte, però che hanno fatto, si misero a pregare, supplicando che il peccato commesso fosse pienamente perdonato. Il nobile Giuda esortò tutti a conservarsi senza peccati, avendo visto con i propri occhi quanto era accaduto a causa del peccato di quelli che erano caduti. Poi, fatta una colletta, con tanto a testa per circa 2000 dracme d'argento, vedete, le inviò a Gerusalemme perché fosse offerto un sacrificio per il peccato. Compiendo così un'azione molto buona e nobile, suggerita dal pensiero della risurrezione, perché se non avesse avuto ferma fiducia che i caduti sarebbero risuscitati, sarebbe stato superfluo e vano pregare per i morti. Ma se egli pensava alla magnifica ricompensa riservata a coloro che si addormentano nella morte con sentimenti di pietà, la sua considerazione era devota. Perciò egli fece offrire il sacrificio espiatorio per i morti, perché fossero assolti dal peccato. Vedete, il sacrificio espiatorio per i morti. Perché se uno muore con dei peccati che non sono agli occhi di Dio mortali, capito che un peccato agli occhi di Dio per essere mortale non basta che abbia una materia grave, avete studiato il catechismo, ma deve essere compiuto con piena avvertenza e deliberato consenso. Per cui i sacrifici per i morti giovano a ottenere la remissione della colpa e quindi a purificare i peccati che hanno commesso. È il primo caso in tutta la Bibbia. Cioè, quando noi facciamo dire la messa per un morto, non è altro che offrire il sacrificio espiatorio di Cristo ed applicarne i frutti in suffragio di quell'anima. Quindi il primo fondamento di questa prassi, che si fonda chiaramente sulla verità di fede, che i peccati non mortali, quindi non che ci pidono la grazia, con cui ci presentiamo davanti a Dio, necessitano di una purificazione post mortem, è questo. L'altro passo, così chiudiamo, vediamo quanto è rapida la ricerca di qua. Però questo eccoli. Sto vedendo un pochettino questo sciocco, che tipo di ricerca ha, perché c'è un passo della lettera ai Romani dove si parla di questo. Non della lettera ai Romani, di una lettera di San Paolo, che tocca trovarla. No. Vediamo se riesco a trovarla, se no poi chiudiamo, eh. Ve la dico per la prossima volta. Facciamo un ultimo tentativo. Eccolo. Oh, che sarà questo? Eccolo. Eccolo qua. È la prima lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetti 10 e seguenti, seguite. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un saggio architetto io ho posto il fondamento, un altro poi vi costruisce sopra, ma ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. Attenti, eh? E se sopra questo fondamento si costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, paglia, l'opera di ciascuno sarà ben visibile. Infatti quel giorno la farà conoscere, perché con il fuoco si manifesterà e il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno. Se l'opera che uno costruì sul fondamento resisterà, costui ne riceverà una ricompensa, ma se l'opera di qualcuno finirà bruciata, quello sarà punito. Tuttavia egli si salverà, attenti però, quasi passando attraverso il fuoco. Passando attraverso il fuoco, ci sarebbe da fare un'esegesi molto molto lunga. Quando San Tommaso commenta, praticamente dice che quelle immagini di legno, fieno e paglia sono figure che indicano i peccati veniali. Sapete che sia il legno, sia il fieno che la paglia, se uno le mette al fuoco, si consumano e poi si bruciano. Quindi i peccati veniali sono come legno, il fieno e la paglia, non si può entrare con quella zavorra dentro il paradiso, quindi prima di entrare bisogna che vengano bruciate, e il luogo deputato a questo è il purgatorio. Quindi, capite, sono indizi molto molto indiretti, però sono gli unici due in tutta quanta la scrittura, eh? Per questo che i luterani negavano l'esistenza del purgatorio, e per questo la Chiesa nella sua sapienza, facendo un'interpretazione autentica, ha tratto da questi due fondamenti biblici il fondamento appunto scritturistico della verità del fede del purgatorio. Questo non c'entra tanto con l'argomento che abbiamo trattato, però era comunque facente parte del secondo libro dei Maccabei. Possiamo chiudere con un gloria al Padre, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.